24 di Giovanni Minoli. Cittadini dell'Avana, da ieri orfani del leader massimo Fidel Castro. Di fatto per loro, ma per tutti i cubani, questa è la cronaca di una morte annunciata. Con profondo dolor che hoy, 25 de noviembre, al fundador de la revolución cubana, hasta la victoria. Sempre. Barack Obama saluta il leader cubano sottolineando che nel corso della sua presidenza Cuba e Stati Uniti hanno lavorato duro per lasciarsi il passato alle spalle. Nella Little Havana degli esuli cubani il sentimento è opposto. Ormai da due giorni si festeggia la morte di un dittatore. La TV cubana racconta delle veglie in Brasile davanti ai ritratti del comandante, dei fiori all'ambasciata di Città del Messico, delle lacrime nel Venezuela. Trump lo accusa senza mezzi termini di essere stato un dittatore brutale. Ed ora che Castro se n'è andato, lascia la sua gente incredula e angosciata, perché il leader massimo ha scritto ogni singola pagina di storia di questo paese. Dunque è morto a 90 anni Fidel Castro, l'uomo che ha sfidato gli Stati Uniti e ha portato la rivoluzione comunista a Cuba. Per alcuni l'avete sentito un feroce dittatore, per altri un rivoluzionario vero. Davanti alla notizia della sua morte ancora una volta il mondo si divide. Da una parte Papa Francesco ha mandato un telegramma di cordoglio definendo la scomparsa di Fidel una triste notizia. Dall'altra parte l'avete sentito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha definito un dittatore brutale. Per Obama invece il giudizio lo darà la storia. Intanto a Cuba sono stati proclamati 9 giorni di lutto nazionale e i preparativi per i funerali che si terranno il 4 dicembre sono già iniziati. E noi andiamo proprio a Cuba, dove Francesco Conversano, insieme a Nene Grignaffini, un regista, uno dei più grandi documentaristi italiani, già vincitore del Davide Donatello per il miglior documentario di lungometraggio, appunto con Nene Grignaffini, sta girando un documentario quasi profetico dal titolo Francesco va a Cuba. Ecco Francesco, di tutti i Franceschi. Francesco, buongiorno. Prima di tutto grazie, perché lì è piena notte, so che sono le 3 del mattino, quindi apprezzo, sono le 3 del mattino, sì, apprezzo certo, lo sforzo. Ecco, come vi è venuta l'idea così tempestiva, quasi un'idea profetica? Ma abbiamo conosciuto un frate dei francescani minori che abitava appunto nelle Marche, che da 15 anni ha una missione qui a La Habana e a Matanzas, e con lui abbiamo seguito questa sua questa sua attitudine, questa sua vocazione a lavorare qui in mezzo ai cubani a La Habana e a Matanzas, e l'abbiamo seguito. Abbiamo seguito partendo un po' da quello che ha dai suoi dicono, occhi, insomma, dai suoi occhi. Ecco, quindi sì, volete vedere, in qualche modo volete guardare Cuba con gli occhi di Francesco, alla ricerca di cosa? Sì, è come dire, guardare questa Cuba di oggi in grande trasformazione con questo sguardo francescano. Abbiamo visto che quello che il Papa ha scritto nella famosa enciclica ha ripreso il pensiero dell'ecologia integrale di San Francesco, e quindi attraverso gli occhi di San Francesco, di Papa Francesco, infine ma non ultimo, gli occhi dei francescani di oggi, cercare alcuni di questi valori francescani, se sono ancora presenti o se sono presenti in questo paese. Ecco, e questi valori sono valori di solidarietà, di bene comune, di sobrietà, insomma parole importanti, e trovano riscontro girando per Cuba? Ma secondo me sì, io non posso dare un giudizio da storico, ma quello di artista, cioè certo, guardare i luoghi comuni, gli stereotipi, ma anche le sfumature, l'invisibile, insomma, quello che si riesce a cogliere tra le facce, tra le persone, tra le parole. E mi pare che questo paese può essere ancora un luogo del mondo in cui ricominciare a pensare che si possa ripensare a un mondo diverso, insomma, dove penso che il popolo cubano abbia questi comportamenti, queste attitudini. Ecco, questi, ma la povertà aiuta o esaspera queste parole come solidarietà, bene comune, sobrietà? Ma io credo che aiuti, cioè la loro povertà io l'ho vissuta come sobrietà, cioè la non necessità del consumismo, questa è una parola su cui Papa Francesco torna spesso, certo, dell'enciclica, quindi mi sembra che questa povertà, diciamo, che può essere sobrietà o povertà, sia un modo loro, mi pare che loro abbiano questa gioia associata alla sobrietà, ecco, non Francesco, è una povertà. Ecco Francesco, Conversano, sì. Voi siete lì da un po' di giorni, questi primi due giorni dopo la morte di Fidel, che aria si respira? Ecco, l'aria che si respira io la sento come un'aria di tristezza e di silenzio, cioè non è siamo qui da due settimane e non si sente più quella musica, ecco, la musica è sparita. È uno degli elementi che caratterizza questa città, cioè la vivacità, la serenità, il canto, la musica che accompagna queste immagini. Quindi c'è tristezza. Sì, io sento tristezza, sento un silenzio, insomma, un po' che è un po' inquietante, direi, per uno che c'è stato qui per la prima volta. Ma sono più gli anziani o i giovani che hanno pianto la scomparsa di Castro? Ma direi più gli anziani, siamo usciti la mattina dopo questa notizia e c'erano degli anziani che piangevano per le strade. Per i giovani è un'altra cosa. Per i giovani è un'altra cosa, poi credo che i punti di vista, c'è una pluralità di anime, di sguardi, e quindi è difficile, molto complesso giudicare. Penso, spero che oggi tra 6 ore andremo in piazza e vedremo come appunto i cubani renderanno omaggio qui a La Habana al comandante, certo, o al dittatore, e quindi capiremo forse meglio da vicino se si tratta di una sincera commozione o di una partecipazione formale. Credo che lo vedremo tra poco. Ecco, Francesco va a Cuba, è il titolo del documentario di Conversano e Grignaffini, un documentario che ha dentro un'intuizione quasi profetica. Dicevo, quando vedremo il vostro documentario? Ma lo vedremo in primavera, è stato prodotto con Rai Cinema e credo, spero, abbia una buona distribuzione televisiva in qualche festival, perché credo che sia comunque un punto di vista nuovo assolutamente. Sulla, di là degli stereotipi. Bene. Ecco. Grazie bene. Francesco, buonanotte, grazie. Diciamo, speriamo. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, gli sms. Ecco, intanto Mario, Raul Castro, il fratello del leader massimo che adesso è il capo di Cuba, ha annunciato però che si ritirerà dal governo nel 2018, rilanciando il tema della successione e di quello che capiterà. Ecco, che cosa potrebbe capitare? Di tutto, perché la realtà è che la morte di Castro, paradossalmente, la morte di Castro potrebbe innescare una serie di problemi giganteschi, appunto la successione a Raul, il problema delle elezioni, della libertà in quel paese, e poi ricordo che la sovranità di Cuba in realtà è una cosa molto relativa. Molto relativa, dipende dall'import di petrolio dal Venezuela, che è uno stato semifallito in questo momento, dai turisti europei e americani che adesso vanno, nei primi 4 mesi dell'anno sono saliti del 13%, ed è l'unica vera fonte di guadagno, di moneta di Cuba, e dalle cosiddette remittance, cioè dai soldi che fanno i cubani di Miami. Quindi quali festeggiano la morte di Castro in modo assoluto. È stato per un loro, dittatore, per loro. Purtroppo questo bisogna dirlo. È così. Quindi è una situazione molto strana, perché ripeto, non hanno niente se non il turismo. È anche difficile capire come sarà il rapporto con gli Stati Uniti, perché Trump ha detto tutto e il contrario di tutto, diciamo. Poi diciamo che non ha simpatie. Non ha simpatie perché ha preso i voti certamente dei cubani di Miami, però è anche un realista. E quindi diciamo che è un uomo concreto. Penso che se vede il business anche per gli americani, Trump darà una mano a Cuba. Naturalmente bisogna vedere come organizza una transizione con Raul Castro, perché però lui ha detto che 2 anni e poi se ne va. Ecco, se per te Pietrangelo con Fidel Castro cosa sparisce? Intanto appare qualcosa sulla scena internazionale, non so se siete d'accordo con me, sarà la seconda Siria per Putin. Nel senso che inevitabilmente si apre una crisi internazionale. Lo ricordava prima Mario, bisogna vedere quali saranno le vere mosse di Donald Trump al di là di quello che ha dichiarato. Certo. E comunque, ancora una volta, sia per motivi storici, sia per necessità di realpolitik, diventerà la seconda Siria perché avrà lo stesso ruolo che ha Assad oggi nel Mediterraneo, Raul Castro, per quel che potrà fare in questi due anni. E comunque la Russia dovrà inevitabilmente dire la sua su quello che da sempre è stato un protettorato. Ha continuato a esserlo anche con la caduta dell'Unione Sovietica. Non è un caso, prima parlavamo di Francesco Bergoglio, non è un caso che la seconda importante comunità ortodossa si trova proprio a Cuba. Infatti, è proprio la ragione per cui si sono stato fatto là. Come è l'incontro, appunto, come è stato ricordato tu. Ecco, ma è quasi come se i cubani avessero in qualche modo imparato a prendere distanze e anche odiare il sistema, ma salvare Castro. Un po' c'è questa dicotomia, perché no? Perché Castro appartiene alla vena, all'identità della loro storia. Posso dire una cosa politicamente scorretta? Certo, non è una novità. No, neppure la sconfitta della guerra è riuscito a cancellare la presenza nella storia d'Italia e dell'identità italiana di Benito Mussolini. Figurarsi se se ne va Fidel Castro, che la guerra e la rivoluzione l'aveva vinta. Ecco, Fidel Castro aveva trovato in Papa Francesco un interlocutore fondamentale. Lo scorso 7 novembre c'è stato l'ultimo dono di Fidel Castro a Papa Francesco, quasi un ringraziamento da Dio. Infatti, in risposta all'appello rivolto dal pontefice ai capi di Stato in occasione del giubileo dei carcerati, il Consiglio di Stato della Repubblica Cubana ha accettato di liberare 787 cubani. Cuba è stato uno dei pochissimi paesi che ha accolto l'invito di Papa Bergoglio. Ecco, padre Massimo Nevola, gesuita, da molti anni accompagna missionari volontari a Cuba. Padre Nevola, è innegabile che ci fosse un rapporto speciale tra Fidel Castro e Papa Francesco, un rapporto nato come? Ma il rapporto nasce dalla sensibilità del Papa per i problemi sociali e dall'opzione che la Chiesa intera, in particolare quella latinoamericana, ha avuto nei confronti dei più poveri, l'opzione preferenziale dei poveri, e quindi un cammino che era presente alla fine degli anni 60 con la Assemblea di Medellin e poi fine degli anni 70 con Puebla. Quindi ha delle radici profonde in qualche modo. Certo. Senta, Fidel Castro ha studiato da voi, no? Dai gesuiti a L'Avana? Sì, a L'Avana, al Collegio di Belen. Io ho anche incontrato e avuto come padre spirituale un gesuita, padre Federico Arbisù, che è stato compagno della squadra di basket insieme a lui nel Collegio di Belen. Ah, è quindi in qualche modo un ex allievo, un ex alunno anche lui. No, a tutti gli effetti è ex alunno, certo. Senta. Padre Rupe, nostro padre generale, quando visitò il paese alla fine degli anni 60, fu ricevuto dalla Fidel. Ma quali sono i tratti dell'educazione gesuita che si possono riscontrare in Fidel? Ma lui stesso lo afferma in un libro, una lunga intervista, no, su Fidel e il cristianesimo, fatta da Faibetto diversi anni fa ormai, dove nota il rigore intellettuale, l'amore per la ricerca, questi sono i tratti che lui riconosce validi nell'educazione ignaziana che aveva ricevuto. Ecco. Una grande passione per la verità, rigore morale, rigore intellettuale e poi anche la scuola della retorica, quindi una certa una capacità dialettica. Assolutamente. Ecco, padre Nevola, un rispetto e una commozione profonda mi è sembrata quella espressa dal Papa nel telegramma di cordoglio mandata alla famiglia Castro. Ecco, secondo lei che significato ha questo messaggio? È un significato che da un lato afferma tutto il positivo che la rivoluzione ha costituito all'interno del popolo cubano, e cioè un dire non con un'epoca che inevitabilmente si chiude, stiamo attenti a non gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo. Perché c'era l'acqua sporca anche, certo, naturalmente. Cioè, indubbiamente, nessuno è ingenuo, e anche la Chiesa che è uscita dopo la visita di Giovanni Paolo II da un tempo di oggettiva marginalizzazione, poi diventando sempre più protagonista. Certo, della vita fino, sociale fino, cubana, fino ad arrivare a combinare in qualche modo l'incontro fra Obama e Raul, no? Sì, no, la mediazione è stata determinante. Lo stesso Obama, lo stesso Obama lo ha ammesso, no? Ecco, sì, padre, certo. L'incontro tra il Papa, tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso Kirill, che è avvenuto proprio a Cuba. Perché è stata scelta a Cuba? Perché è molto importante quell'incontro anche in visione strategica. Il Papa aveva programmato il viaggio in Messico, non era programmato un ulteriore scavo a La Habana, anche perché c'era stato solo alcuni mesi prima. E è stata scelta a Cuba perché era previsto nello stesso tempo un viaggio di Kirill alle comunità russe che si sono nel frattempo ripopolate. Però è una scelta molto significativa, certo. Insomma, il fatto di incontrarsi a Cuba. Il Papa è andato incontro al luogo dove si trovava già Kirill, nel momento in cui la diplomazia vaticana e quella russa si sono incontrate per determinare questo viaggio storico, perché è il primo nella storia, ma è stata scelta anche Cuba per un paese che segna un'alternativa sia tra il mondo orientale, quindi anche quello stesso russo, sia quello occidentale. È un'isola che rimane lì con il suo sistema, tra virgolette, un po' ecco, interessato. E quindi non si può identificare direttamente né con l'Europa né con, certo, con il Nord America. Ecco, padre Nevolo, ancora una cosa: qual è l'eredità di quell'incontro? Dove potrebbe portare questo incontro fra il Papa e Kirill a La Habana? Beh, come cammino ormai si è intravesa una strada, e questa strada difficilmente avrà dei ritorni indietro a un passato di inimicizie. Chi è Papa Francesco per i cubani? Si può trovare una definizione? È un amico, è il profeta della speranza, è colui che, riferendosi al quale il sistema potrà evolvere verso prospettive sempre più democratiche, è colui che si spera possa aiutare realmente l'apertura di Cuba verso il mondo e soprattutto del mondo verso Cuba con la fine dell'embargo. Ecco, continueremo a parlare di Fidel Castro dopo la pubblicità. Intanto Mario, hai una bolla? Sì. Che bella. Bruno Mars. Bravo. Meno 7, Giovanni. 5 dicembre. Allora, è un appuntamento, non lo ripetiamo più, importantissimo per mille motivi. Oggi escono i dati, l'Istat dalle 10 darà i dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia. Sono importanti perché vanno letti ovviamente sulla lama, no, del referendum, certo, che sta per arrivare. Si parte da quota 109, era l'ultima rilevazione di ottobre, vediamo se è di più o di meno. È un indicatore, come tanti che ce ne sono in questo momento, e insomma succedono cose ovviamente nel mondo che si incrociano con quello tra loro, che tra di loro. Ci sarà una riunione della Fed a breve, è molto importante, sui tassi, avrà ripercussioni ovviamente anche in Europa. Il Financial Times, secondo me, è uno scenario un po' troppo, diciamo, pessimista, però certo va tenuto in considerazione. Dice che se dovesse vincere il no e ci fosse un avvitamento politico-finanziario, potrebbero addirittura essere messe in discussione tutte le otto banche. Mi sembra, francamente un po' troppo. Certamente ci sono dei rischi, delle tensioni, naturale, ma quelle ci sono, sia che vinca sì che vinca no. Purtroppo è così, è reale questo. Sono reali. Salamino. Panettone o Pandoro? Ecco il vero referendum. Jingle bells. No, che c'entra la musica, insomma, non lo so, Natale. È partita sta musica, sì, vince il sì o vince il no, le cose non cambieranno sul fronte del centrodestra. Vince il no, insomma, invece succederà di tutto sul fronte del centrosinistra. Se vince il sì, sarà panettone per Matteo Renzi, se lo gusterà sereno, toglierà l'uvetta per gustare un rimpasto a lui più consono, lascia nel piatto qualche ministro non particolarmente fedele e farà così Natale, Pasqua, Epifania. Se invece vince il no, sarà Pandoro! E di nuovo sta musica. Insomma, sarà Pandoro per molti, una lotteria di festa per chi viene, ma anche, caro Giovanni, per chi se ne va. Antonella Manzione tornerà a fare la guardia comunale, Maria Elena Boschi torna a fare l'avvocato e magari, maturata l'esperienza e mettendo a frutto l'affitto alla casa, ce l'ha a Roma ormai, completa il praticantato presso lo studio Previti. Il potente Luca Lotti trova il tempo di farsi spolverare la forfora e Denis Verdini va a X Factor perché lui canta bene, mentre invece... Poi, no, lo sai dove va? Viene con noi alla 7. Lui va a condurre le invasioni. Sì, Denis, va a condurre le invasioni barbariche. Mentre Dario Bignardi, se vince il no, torna al Grande Fratello. Però no, quello VIP, quello semi VIP. Ah, beh, tutto un domino, VIP. Un domino televisivo. Se vince il no, tanto per cominciare, ci sarà un nuovo inquilino a Palazzo Chigi. Altro che tecnici. Pietro Grasso, naturalmente, presidente del Senato, chiamato al dovere istituzionale perché lui farà come il Conte di Montecristo. Quello voleva abolire la Camera degli Ottimati. E lui, bello e spietato, arriva. Ma l'altro nome più papabile, anche perché intimo del Quirinale, con Sergio Mattarella nel ruolo di Babbo Natale, è Dario Franceschini, che è l'attuale ministro dei beni culturali. Se vince il no, certo, si riapre la gara per le primarie del centrodestra. E di nuovo questa musica. Allora, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giovanni Toti scaldano i motori, ma vinca il sì, vinca il no, il presepe del centrodestra è sempre di Silvio Berlusconi, che infatti manda a dire: ma chi sono io? Babbo Natale? Mario, c'hai ancora una, sì, una bolletta? Una notizia. Una notizia? Una notizia. Che poi è un messaggio in bottiglia a chi pensa che diciamo, la linea di Obama sulla Russia fosse una cosa vincente. Segnalo che il generale Haftar è a Mosca. È il generale Haftar, mazza, sei importante. No, no, di bene chi è. Il generale Haftar è il signore che muove le truppe. Signore della guerra della Libia. Muove le truppe a Bengasi e tutta nella zona, diciamo, della Cirenaica. E l'influenza russa si allarga. Ecco, è per la seconda volta nel giro di pochi mesi, è stato là a giugno e di nuovo a Mosca. Non ci sono altre notizie, però la sola presenza secondo me dà un'idea del fatto che non si può fare la pace in Medio Oriente e nel mondo, senza Mosca, senza quello mi sembra oramai Realpolitik. Chiaro per i gialli della storia, l'abbiamo detto. Dopo la pubblicità racconteremo la storia di Fidel Castro e intanto Gloria Guerrera cosa ha scelto per noi oggi? Oggi una canzone per chi attraversa boschi pericolosi. Abbiamo tutti paura, basta dimenticarla. Lucio Dalla, Attenti al lupo. E noi due qui distesi a far lava in mezzo a questo mare di cicà, quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Verso il bosco con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attento al lupo.